Cioè, va bene, o no? Va bene. Ciao, va bene, va bene. Ciao Pippo Pozzato, grandissimo. Ciao. Ciao, ciao, in bocca al lupo per Tirreno Adriatico e soprattutto Milano Sanremo. 800 24 00 24, spero che siate simpatici come sempre anche voi, cari amici ascoltatori, tutti convocati su tutto quello che volete. Poi, ma chi è la talpa dell'Inter? Ma ditemelo in un orecchio, ma chi è la talpa dell'Inter? 800 24 00 24, giuro, non lo dico a nessuno. Traffico, tutti convocati, ci siamo sempre. Tutti convocati. Che ti frulla in testa? E presto? Non mi toccare! Mostreranno a questa città. Lay down the boogie and lay down. Chi è la talpa? Mi hai sparato, mi hai trascinato per tutta la città e poi mi hai usato. Adesso gli ordini li do solo io. Oh, comandi tu ora. Sei la talpa. Sì, sono la talpa. Ma chi è la talpa dell'Inter? 800 24 00 24, numero verde, non solo per questo naturalmente vi convoco, ma per tutto ciò che volete, messaggi 349 238 6666. C'è chi dice che è Cambiasso, Carmelo, c'è Mimo che dice che è Cassano stesso la talpa, ne dubito, non lo so, io non lo so chi è la talpa, lo sa Pazzini e poi lo sentiremo, probabilmente lo sa il collega Marco Barzaghi di Mediaset, chissà se ce lo dirà. Dunque, messaggio questo: neanche una parola sull'assurda espulsione di mister Ballardini, magari solo perché non allena le solite note. Diego da Genova. No, una parola la diciamo. Allora, Ballardini è stato espulso goffamente dall'arbitro di Roma-Genoa per aver varcato la soglia tecnica dopo che aveva detto ai suoi di buttare fuori la palla perché c'era Osvaldo a terra. Io sono sempre lì. Allora, l'espulsione è eccessiva. Ballardini era uscito dall'area tecnica per questa ragione. Continuo ad essere dell'idea che però la palla fuori non si debba buttare. No, e la mia idea non la cambio. C'è un arbitro deputato a fischiare quando si rende conto che c'è una situazione che merita che il gioco sia fermato, punto e basta. La palla contro i cartelloni pubblicitari non si butta, si va avanti a giocare. Quindi certamente comica l'espulsione di Ballardini, certamente ingiusta ed ingiustificabile, però smettiamola con questo fair play di plastica. 800 24 00 24. Fabrizio, provincia di Ancona. Buonasera. Buongiorno. Senta, io vorrei intervenire sul caso Cassano dopo le dichiarazioni di ieri fatte da Moratti. Sì. Moratti ha detto che quando succedono certi fatti non è un male che escano dallo spogliatoio, la cosa grave è che succedono. Allora, io sono perfettamente d'accordo su questo, però trovo un po' strano che giudici normale il fatto che quello che accade dentro uno spogliatoio venga fuori. No. Poi la sua dichiarazione a proposito di Cassano, che è un artista, mi fa capire tante cose, perché se un giocatore fa certe cose deve essere, secondo me, condannato. Certamente il presidente non può dirlo in pubblico. Però... Sì, non la sento benissimo, ma ho capito il concetto e sono dell'idea opposta alla sua e non so se a quella di Moratti. Cioè, la cosa grave non è il bisticcio nello spogliatoio, ma quello che la cosa peggiore, più fastidiosa, se fossi un tifoso dell'Inter, è che queste cose escono in tempo reale quando sono cose che succedono in altri spogliatoi e rimangono lì dove sono. Quindi non credo che la cosa grave sia il bisticcio, che poi non so neanche originato da che, da un momento di tensione agonistica o da episodi pregressi, non lo so dire, ma in fondo è poco importante. La cosa importante è da quello che è quello spogliatoio ha le orecchie, e ha le orecchie non da oggi ma da moltissimo tempo. Allora, c'è chi scrive: hai portato questa trasmissione a livello dei peggiori rotocalchi di gossip, complimenti. Lo prendo come un complimento e ringrazio l'ascoltatore anonimo. Non penso sia gossip, penso che sia sport vissuto con un po' di allegria, no? Andrea su Twitter sa chi è la talpa dell'Inter. Felice Centofanti che fa il giardiniere alla Pinatina. Non lo so. C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. da un bel po' che è lì. Massimo Modena, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. È un bel po' che volevo parlare con lei. Ma perché... che bella voce! Da convocato. La voce. Sono convocato. È un po' di tempo che volevo parlare con lei, perché prima cosa ho scoperto, lo sapevo già, lei è un grandissimo milanista. Dica la verità, è vero che lei è del Milan? No. No, lei è un tifosissimo del Milan. No. Perché le spiego... No, poi lo parlerò un giorno, poi la richiamerò e gli dirò che è un grandissimo milanista. Ma detto questo, no. La trovo però... un po' patetico nel spiegare le cose sull'Inter, perché è un po' di tempo che seguo questa radio qua e seguo anche lei, anche con piacere, perché faccio rappresentante, sì. È un po' troppo ironico, no? Perché sull'Inter, no, io credo che si può dibattere come meglio si vuole, no? L'Inter ha fatto degli errori, no? Però quello che trovo un po' fastidioso da tifoso, no? E quando ascolto anche le varie notizie, no? Che di l'Inter si parla sempre in una certa maniera, no? Qualunque sia il risultato, lei si figuri che l'ho sentita lei, quando c'era ancora il signor Garanzini, sì, dire che l'Inter di Mourinho non era una gran squadra all'epoca. Io quando l'ho detto, ha vinto io tutto, giuro. Se l'ha detto lei. No. Bene, lei Massimo, l'ha detto. Massimo, non l'ho mai... ma il problema c'è perché io non l'ho mai detto. Io considero l'Inter di Mourinho una grandissima squadra e considero Mourinho un grandissimo allenatore, un grandissimo personaggio che mi manca da morire. Quindi lei, se dice così, si sbaglia, si confonde. Poi se si fa dell'ironia sull'Inter come si fa su tutte le squadre, insomma, una ragione ci sarà, no? Una ragione ci sarà, perché l'Inter spesso dà adito. Poi non c'è da prendersela male, magari da scherzarci sopra, però l'Inter spesso dà adito a un pizzico di ironia che fanno gli stessi interisti. Se voi sentite e leggete come scrisse una volta grandissimo amico Beppe Severgnini, siamo sexy, nessuno riesce a toglierci gli occhi di dosso, ma è così, l'Inter è così, quindi non c'è da prendersela male. Quindi non è questione di tifo o di che altro, che peraltro per me è materia abbastanza, ve lo giuro, materia abbastanza sconosciuta. Poi pensatela come volete, datemi pure dello juventino, del milanista, del romanista, del napoletano, datemi pure di tutto quel che vi pare, mi importa nulla. Allora, Fabio da Fermo. Fabio, buonasera. Sente? Sì, perché squadra tengo? Che squadra tengo io? Lei? È Milan. Perché? Così intuitivamente. No, perché l'ha detto l'ascoltatore di prima. Non è vero. Vabbè, andiamo avanti. Dica. Io volevo parlare degli accorgimenti su Cassano, credo che sia uno dei calciatori più sopravvalutati dell'ultimo decennio, credo. Perché rispetto ad altri se ne parlava sempre tanto, più per le questioni un po' comportamentali che per quelle calcistiche. Grossi risultati non li ho visti, i guadagni li sappiamo tutti, credo che le teste non si cambiano, soprattutto dai tempi di Capello, non c'è riuscito Capello, non credo ormai che possa riuscirci qualche altro allenatore. Ma ci hanno provato un po' come Balotelli, insomma, né più né meno. Beh, no, io metterei un distinguo tra Cassano, trentenne, e Balotelli, 22enne, quindi sì, aspettiamo un attimo a darlo per l'erede di Cassano da questo punto di vista, Balotelli, perché fin qui mi sembra un giocatore che, quando è in condizione, riesce ad essere determinante. Io aspetterei un attimo a valutarlo, a valutarne il valore assoluto. A quanto pare non giocherà nemmeno la prossima a Genova venerdì, perché è ancora infortunato, ma sono molto curioso di vedere Balotelli una stagione intera da titolare, come sarà l'anno prossimo con il Milan. Poi diamo dei giudizi anche sulla sua maturità, sullo spreco di talento, su tutto quel che volete. Cassano a me sembra tanto oggi un giocatore degli anni 70, per le movenze, per i ritmi con i quali gioca, eccetera. Poi la testa è quella che è, tutti sapevano che questa luna di miele sarebbe in qualche modo terminata, è finita così, con la complicità delle gole profonde che abitano lo spogliatoio dell'Inter. Questo non mi pare non mi pare dell'ironia, mi sembra della cronaca. Che ne dite? 800 24 00 24. Antonello da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Sì, ho nostalgia Napoli. Di Mourinho. Che tristezza, mi scrive un ascoltatore. Triste sarà lei. Io ho nostalgia di Mourinho perché è un personaggio di grande carisma. Ed è un personaggio che comunque era divertente sentir parlare, era divertente intervistare, che aggiungeva qualcosa a questo calcio un po' morto dentro, triste dentro. Dica. Allora, non sono di Napoli, dalla provincia di Caserta, sì. Tifo Napoli, volevo solo constatare che Napoli senza Cannavaro ha fatto un mese di fuoco, quasi tutte vittorie, con Cannavaro centrale di difesa. Il Napoli ha difficoltà di fare gioco perché è il giocatore che fa i lanci lunghi, calcio anni 70 su Cavani che si spompa e quindi abbiamo perso punti per strada. Anzi, speravo tanto che non ci togliessero i due punti e non togliessero la squalifica a Cannavaro perché si poteva recuperare qualcosa in più rispetto ai due punti. Io credo che il problema più che Cannavaro sia una squadra un po' in panne fisicamente e soprattutto una squadra che... alle dipendenze strette dei gol di Cavani, ma come è normale che sia, se Cavani non segna da un mese direi che è normale aver incasellato i punti che il Napoli ha incasellato in questo periodo, ma ripeto è giusto così, quando hai la tua superstar che vive un momento così difficile puoi fare quello che vuoi, ma di punti in classifica non ne fai. Ci fermiamo per la borsa 800 24 00 24, anche tanti messaggi 349 238 6666. Traffico, no, borsa. Il gruppo è fantastico, mi stanno mettendo a loro agio e io sono veramente contento adesso. Tutti convocati. Tu sei un cittadino che sta collaborando a un'indagine federale. Ogni volta che incontrano una persona nuova, hanno paura che sia la talpa. Scusi? Non ti illudere, cercavo una cimice. Allora, chi è? 800 24 00 24. Pare che lo sappiano tutti, l'ha detto anche Giampaolo Pazzini a 11. Secondo me Barzagli ha detto delle bugie. Sì. Fa la verità a lui, ma giustamente non la può dire. Ah, tu la sai la verità? Hai un'idea? No, non ti voglio dire. Sì? Cioè, sai chi è la talpa? Ma dai, lo sanno un po' tutti, dai, io penso che lo sanno un po' tutti. Pare lo sanno un po' tutti che questa talpa dell'Inter. 800 24 00 24, magari lo sapete anche voi, allora ditemelo perché io non lo so. Io sono qui tutti i giorni a parlare con voi, non riesco ad andare da Piano Gentile, non so nulla, non so chi è questa talpa. C'è chi mi scrive: lei tiene per Mina perché si ricorda dei particolari che solo un tifoso ricorderebbe. Non è vero, io so un sacco di cose inutili. Sono il campione mondiale delle cose inutili, tanto che se vi sfido a Trivial Sport non mi battete mai. Una volta mi hanno chiesto che cos'è che ha 336 fossette. Provate a darmi una risposta. 800 24 00 24, oppure messaggio SMS 349 238 6666. In attesa di scoprire chi è la talpa, scopriamo che cosa dice. Beh, oggi Conte ne ha detto una bella, alla vigilia di Roma, di Juventus, Celtic, Glasgow. A proposito di tifo e di tifosi, non so se ce l'abbiamo quello che ha detto orora Antonio Conte. Questo. Quest'anno, visto che sento dire che la Juventus ha vinto lo scudetto, mancano 11 partite, dico... Facciamo grande attenzione, perché quello che è successo l'anno scorso al Milan ci deve servire da esempio ed esperienza per cercare di non farlo ripetere quest'anno. Ecco, però ringrazio Gagliani per la stima nei nostri confronti, so che lui in fondo è juventino, no? Quindi, e so che alla fine dovesse accadere questo, sotto sotto sarà contento. Ecco. Allora, Conte dice... Gagliani è juventino, dopo questa vale tutto. Risentiamo Pazzini invece. Secondo me Barzagli ha detto delle bugie. Sì. Fa la verità a lui, ma giustamente non la può dire. Ah, tu la sai la verità? Hai un'idea? No, non ti voglio vedere. Sì? Cioè, sai chi è la talpa? Ma dai, lo sta... Lo sanno un po' tutti, dai, io penso che lo sanno un po' tutti. Beh, i miei amici ascoltatori anche nel trivia sono forti. Certo, la pallina da golf a 336 fossette, come avete risposto in molti. Marco Barzaghi da Mediaset, buongiorno. Ma io non vedo, dico, non sento non e non lo parlo, dico, non lo dico a nessuno, siamo in confessionale. Non ci ascolta nessuno. Pazzini dice che tu sai. Ma Pazzini non so perché lo dica, io non so niente. Nego tutto. Neghi tutto, anche l'evidenza. Oh, tengo famiglia. Anch'io. No, io mi limito a riportare i nomi dei miei ascoltatori, il più gettonato è Cambiasso, però è una statistica che arriva dagli SMS, poi alla fine importa poco, no? No, importa ma poco. Ma anche perché molto. Un po' se ne sono sentite, tranne il maggiordomo, penso che l'abbiano detto tutti quelli che potevano aver, diciamo, raccontato dello scontro tra Cassano e Stramaccioni. Ma chi le ha prese e chi le ha date? Ma non penso nessuno, perché sono stati divisi prima, quindi solo qualche spintone, niente di così rissoso come poteva sembrare in un primo momento. Marco, quanto ti sei messo a ridere dopo aver sentito che Moratti diceva che Cassano è un artista e gli artisti tutto sommato questo si concede? Ma no, dai, ridere no, però comunque... Io tanto. Di castanate ne abbiamo viste tante, non penso che non sia neanche la più grave questa. Non è la più grave, però grave, io ripeto comunque il fatto che comunque sono cose che succedono in tutti gli spogliatoi, ma quelli dell'Inter hanno i muri di vetro. Questo sì. Ti ricordi questo Stramaccioni? Senti qua. Cassano sempre meglio. Sì, Antonio sta dimostrando le sue qualità e sta dando il suo grande contributo all'Inter e per ora molto bene. Oh. Ma adesso fuori d'arte dall'intervista, ma che molto bene, questo è macello. Male, male, ma quale bene, bene, male, male, male, male, un disastro. Naggi, a me ho fatto sta cavolata più a questo, un macello proprio. Scherzava, ma è stato premonitore. Sì, scherzava, ma è stato premonitore. C'è cascato, scemo. Senti, Marco, però intanto gioca con il Tottenham, quindi... Ma non so se giochi, dipenderà molto dalle condizioni di Guarin, che ancora oggi ha fatto terapie. Quindi se Guarin ce la dovesse fare, probabilmente partirà dalla panchina Cassano con un 4-2-3-1 molto simile a quello del secondo tempo di Catania, con Guarin, Alvarez e poi Palacio da sola unica punta. Se Guarin non ce la dovesse fare, è possibile uno schieramento, diciamo, con Cassano, diciamo, finto 9, oppure con Cassano e Palacio un po' più offensivo. Quindi bisogna capire domani come starà Guarin, che ha ancora questa caviglia dolorante malconcia. Quindi per forza di cose, almeno per arrivare a 11, no? Esatto, anche perché in Europa League, a mio parere, sono state sbagliate anche le scelte, comunque, sì. Piuttosto che Kovacic anche... Ma Kovacic che fine ha fatto? Scusami, non era the next big thing del calcio mondiale? Almeno è stato così presentato. Forse è stato un po' troppo sparata ai 4-20, anche per rispondere al colpo Balotelli. Adesso in casa interista stanno cercando, diciamo, di proteggerlo, sì. Di tenerlo abbastanza sotto coperta, però ha buone possibilità di giocare domani, giovedì sera, quindi potrebbe rivedersi. Io non gli avrei dato la maglia numero 10, perché soprattutto a un 18enne appena arrivato in una realtà nuova può essere troppo pesante, anche se lui è freddo o comunque non pensa alla maglia che porta sulle spalle, però per quello che può pensare la gente... Io mi ricordo al suo arrivo, in tanti mi dicevano: sono venuto apposta per vedere Kovacic allo stadio prima del suo esordio. Comunque, se uno porta la numero 10 dell'Inter, in ogni caso ci sono tante aspettative. Forse, vedendo anche il momento della squadra, potevano dargli il 7, il 18, il 100. Poi c'era modo di cambiarlo l'anno prossimo, no? C'era esatto, modo di... no. Poteva essere comunque anche un modo per dargli un po' più di tranquillità senza troppe aspettative come ci sono state, e in un momento difficile come quello che lui ha vissuto al suo arrivo all'Inter, chiaramente non è riuscito a fare quello che riusciva a fare con la Dinamo Zagabria. Comunque a 18 anni è sicuramente un prospetto tra i più interessanti del calcio europeo. Ma certo, non c'è dubbio. Marco, ti ringrazio. Hai già sentito Pazzini? No, non ancora. Comunque, fai uno squillo, va. Da casa Inter oggi sto tornando da Piano Gentile. Mi hanno detto che anche il Cassano non sarà neanche multato, quindi anche per chiudere neanche, la vicenda. Grazie quello. All'intervento di Moratti e anche alla mediazione di Beppe Bozzo, il procuratore di Cassano, che ha ottimi rapporti con l'Inter, ma anche con Stramaccioni, quindi questo ha contribuito a far rientrare il tutto. Ah, fantastico, quindi quei 40.000 se li tiene in tasca, fantastico. Magari paga la pizza a Stramaccioni, vabbè. Speriamo. Grazie Marco, un abbraccio. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Marco Barzaghi che non ci ha rivelato nulla. Segreto d'ufficio, segreto istruttorio. Ma chi è la talpa? 80024 0024, Sergio da Brescia. Sì, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Io rispondo al quesito, A quale? Al quesito delle fossette. Ah, beh, ormai è noto, l'abbiamo detto. Qual è? Ah, beh, è la palla da golf. Palla da golf. Siete tutti invitati a giocare a Trivia con me. Trivia Sport. Accetto la sfida, allora. Okay. Accetta la sfida? Guardi che io di cose inutili ne so un sacco. Sarà una bella sfida, allora. Allora sarà una bella sfida. Sono buona giornata, il re delle cose inutili. Grazie a lei, Sergio. 800240024, quanti quesiti. Poi non ci mancherà naturalmente l'angolo dello sceicco, è immancabile poi nell'ultima parte del programma. Patrizio Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io la ringrazio molto dell'ora che mi fa trascorrere tutti i giorni. Voilà. Io avevo telefonato per rispondere alla storia delle fossette, che era la pallina da golf. La pallina, ormai l'abbiamo scoperto. L'abbiamo bruciata. Domani mi invento qualcosa di più difficile. Va bene. Comunque davvero la ringrazio tanto della trasmissione, perché ma grazie a voi, ma questa trasmissione la fate voi, mica io sono qui a... La ringrazio e le porgo un abbraccio. Grazie, reciproco, io sono qui a far sentire le vostre voci, della cosa che conta. 800240024, numero verde. Dunque, Galliani è tifoso della Juventus, questo l'abbiamo scoperto oggi. Mentre sulla talpa ci sono dei sospetti, ma nessuno si sbilancia. Traffico. Ma no, ma insomma, sarà stata non ero presente, non vi so dire cosa è successo. Ma vedo che tendono tutti a normalizzare, insomma. Lui, sappiamo, è un campione, gli artisti sono un po' speciali, bisogna capirlo, insomma. Tutti convocati. Raffaele da Verona, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Volevo dire che... mi voleva dire che tutto non abbiamo recepito. Grazie, comunque, magari ci ricolleghiamo. Davide, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Senta, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché vabbè, il tono è sempre di quelli che mi piace. Bene. Però volevo chiederle, io sento parlare lei in generale dell'Inter, o comunque diciamo gli addetti ai lavori, mi sembra sempre che, guardando poi la classifica, il Milan abbia il doppio dei punti e davanti all'Inter ci siano 10 squadre. No, in realtà non è così. L'impressione è questa. In realtà non è così, Davide, però avrà anche ragione lo Juventino Galliani, che dice: gli importanti punti è farli, prima o dopo non importa. Il fatto è che l'Inter se ne è fatti mangiare un sacco dal Milan in particolare. Certo, però se sono a un punto di differenza vuol dire che prima il Milan ha fatto male. Ma non male, peggio. Il Milan ha fatto... non male, peggio. Il Milan, le ricordo che dopo le prime 7 partite era in zona retrocessione, quindi ha fatto non male, peggio, però... ha fatto una grande rimonta, quindi in questo momento non lo so, se la paragoniamo ad una gara di ciclismo, c'è chi era in fuga che è stato superato da chi arrivava da dietro, e poi bisogna recuperare questo gap. In questo momento l'Inter mi sembra una squadra sfigatissima, perché lo è, e lo sa benissimo, visto che sono venuti a mancare due giocatori più importanti, come sottolinea anche qualcuno via SMS, ma l'ho detto già 100.000 volte e mi ripeto, i giocatori più importanti di questa squadra, quelli terminale offensivo e il centro difensivo, che sono Samuel e Milito, ed è una squadra fisicamente ridotta ai minimi termini. Poi ha fatto un miracolo domenica nel riuscire a rimontare una partita impossibile, perché dopo il primo tempo sfido anche il più duro e puro tra gli interisti a dirmi che ci credeva ancora. Adesso si gioca un finale di stagione in cui l'Inter, insomma, non mi sembra abbia molte munizioni da sparare. Poi magari arriva terza, supera il Milano, arriva seconda, becca addirittura il Napoli, che mi sembra riserva di energia. Francamente il calcio è strano, però in questo momento dovessi fare un pronostico, e l'ho già fatto ieri, direi prima Juventus, secondo Milan, terzo Napoli, ma è una mia opinione così totalmente disinteressata. Allora, adesso un po' di romano, Roma e Lazio, a partire dal professor Lotito per la solita lezione di latino. È una cosa tipicamente cristiana, l'amore vince ogni cosa, ed è vero questo, perché ha un trasporto diverso, quindi significa che non c'è solo tutte quelle cose che abbiamo detto prima, Ubi Maior Minor Cesta, Homo Homini Lupus, eccetera, ma l'amore, la forza dell'amore vince qualsiasi cosa, perché tu per l'amore fai qualsiasi cosa, sacrifichi financo la vita, quindi cioè, l'amore vince qualsiasi cosa, anche sicuramente la propria personalità, il proprio egoismo, perché amore significa abnegazione, dedizione, quindi voglio dire, è l'opposto dell'atteggiamento egoista, dell'atteggiamento individualista. Sono sceicco Giordano, da dove cresce il petrolio. Sono sceicco Giordano, non vengo a Roma in cammello. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco. No. Si sono accorti che io sono napoletano, sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. Dammi la Roma, pallotta, dammi. Mancabile l'angolo dello sceicco, e la notizia del giorno è questa. Il direttore di Teleroma 56, Stefano Piccheri, ha detto: premetto che sto per rivelare, non è una notizia, bensì una soffiata che ho avuto da fonti molto attendibili. Al Kaddoumi è vicinissimo a chiudere l'affare con la Roma e la proprietà americana. Oggi potrebbe già esserci l'annuncio, visto che i soldi sarebbero già arrivati, si parla di 50 milioni di euro. Intanto però il termine previsto ha subito una proroga e potrebbe scivolare oltre il 14 marzo. Nel contratto preliminare infatti è prevista questa proroga dei termini, non so dove stiano questi 50 milioni. Comunque Al Kaddoumi ha provveduto nel mentre, prima del fine settimana trascorso in Umbria, a sporgere querela contro alcune dichiarazioni che aveva ritenuto lesive, come quelle di chi? Dei vertici del Don Orione di Bergamo. Raffaele Verona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirti una cosa, credo. Dimmi che lo tutto. Sai, però cosa chi so? È la talpa, giusto? No, dimmelo tu, chi è? Ah, è chiaro, Gioia. Beppe ti dice qualcosa, Beppe? Beppe Baresi, chi vuoi che è? È lui? È lui, amore mio, l'allenatore in seconda. È sempre in seconda, non è mai prima. Quando è che mette la prima? È chiaro che la talpetta di Moratti non lo toglierà mai, Beppe. Ma tutti lo amano, e anche noi lo amiamo. Ma la talpa di Moratti o della stampa? Di tutti e due? fatto il double face, ha fatto il double face, tutto qua. Va bene, un bacione, un bacione. Anche a te, Raffaele. Dunque, abbiamo in questa hit parade della talpa dell'Inter, abbiamo molti voti per Cambiasso, uno anche per Beppe Baresi, da Raffaele, che ne è certo. Diego Venezia. Ciao Genta, ciao. Io ti ascolto, ti ringrazio per la bellissima trasmissione. Io faccio l'agente di commercio e mi fai compagnia per un'ora. Meno male. Però io vorrei fare il referendum. Da quando c'è Balotelli sei più milanista? È traspare, sì. Ma è normale, sai. Anche Sconcerti su Sky dice, sì, che è della Fiorentina, ma non è mica niente di brutto. E si vede, che si sente che sei milanista, sei troppo contento. E poi ti metti un po' di ironia. Io sono interista, allora. Io sono interista e sono criticissimo. Per me l'Inter, sì, è Moratti, no? Quello, sì, che è Moratti è l'Inter. Sì, anche se, ha detto che la multa Cassano avrebbe decisa la società, no? Poi non c'è stata, si vede che la società ha deciso di non dargli. Ma non si capisce chi è la società, no? Bravo, tutto quello che è successo, chi vuoi che positivo sia. È successo perché c'era Mourinho, l'unico che fa società. Okay. Ma certo, dai, questo lo sappiamo. Ma per questo mi manca da morire. Cioè, secondo te un milanista dire mi manca da morire Mourinho? Perché tu sei un bravissimo giornalista e hai bisogno dei discepoli di Mourinho, lascia stare. Avete bisogno, voi giornalisti, pensa che Sconcerti, secondo me, è passato da un giornalista da 100, che io lo stimo tantissimo, leggo il Corriere, lui è più bello quando scrive che quando parla in televisione, perché quando parla in televisione cerca di fare l'unplay, non serve, dovrebbe essere un po' più tranquillo, perché quando scrive delle cose giustissime. Voi giornalisti avete bisogno di stimoli, e Mourinho è un grande condottiero anche per i giornalisti, perché gli dà motivo di esistere. Ma perché è uno che ha carisma, è uno che dice le cose, è uno che non ha paura di mille fantasmi, dai, anche uno che ha paura, che non ha paura di metterci la faccia, e quindi per tutti questi motivi Mourinho mi manca da morire. Ma io sono contento che sia tornato Balotelli, ma non, cioè, fosse andato al Napoli sarei stato contento lo stesso, o fosse tornato all'Inter, perché è un giocatore che mi diverte. Io faccio il tifo per i giocatori che mi divertono, ma sul campo, non fuori, perché non li frequento. Giuliano Modena, poi a casa, 30 secondi, dica. Ciao. No, complimenti per la trasmissione, complimenti a Gagliani, perché come al solito è un grandissimo commerciale. A fronte di una Juve che secondo me è una spanna sopra tutte, Gagliani ha comunque l'interesse a vederla andare verso lo scudetto in maniera serena. Sì, magari poi ci sentiamo, Giuliano, ci sentiamo domani, perché sennò mi stampano il microfono in faccia. Sentiamo domani con tutti voi, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, tutti convocati domani alle 2, ciao. È lui, amore mio, l'allenatore in seconda. Tutti convocati.